Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Adesso, terminando il giubileo, io mi auguro, ed è questo il fronte su cui proverò a lavorare, che parte dei militari che c'erano sul progetto Strade Sicure ed erano a Roma per il giubileo, parte potranno arrivare a Milano. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è la richiesta del sindaco di Milano Sala. Oggi era in visita nelle periferie del capoluogo milanese con la presidente della Camera Boldrini. Questa è la richiesta di far arrivare a Milano nelle periferie l'esercito, quello che era stato impiegato per il giubileo. Dice adesso che la questione, insomma, è finita, venga qui, perché questo è successo in seguito, questa sua richiesta, in seguito a quello che è successo sabato sera in Piazzale Loreto, una delle piazze più conosciute di Milano, con l'accoltellamento di un 37enne domenicano, ferito anche a colpi di pistola. Sembrava si potesse salvare, invece oggi è arrivata la notizia che non ce l'ha fatta e quindi è morto. È stato cambiato in questo tentato omicidio in omicidio. E quindi Sala vorrebbe che per questo allarme sicurezza a Milano arrivasse l'esercito. Per me, come sentite, non è cambiato niente per la mia voce, la bronchite continua a galoppare imperterrita, però naturalmente sono qui con voi per tutta l'ora. Ci occuperemo come sempre di tanti temi, alcuni da approfondire, altri ve li riassumerò all'inizio. Fra gli altri torneremo naturalmente a occuparci di Stati Uniti, come va questo periodo di transizione tra il presidente uscente Obama e il presidente entrante Trump. Non sembra molto bene, ci sono polemiche, ci sono proteste e ne parleremo, così come ci occuperemo del fatto del nuovo allarme dell'Agenzia Meteo dell'ONU. Il 2016 sta per diventare l'anno record per il caldo, il più caldo in assoluto da quando sono cominciate le rilevazioni meteorologiche da fine 800. E poi scopriremo perché sono a sorpresa aumentati i matrimoni in Italia. L'anno scorso, 2015, è stato il boom. Come mai? 349-238-6666, come sempre, il numero per i vostri interventi via sms o whatsapp, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, la pagina Facebook del programma. Intanto, riassunto della giornata. Stati Uniti, scoppia la polemica sul capo stratega dell'amministrazione Trump, considerato esponente dell'ultradestra razzista, critiche da ebrei, musulmani e neri. E intanto il neoeletto presidente annuncia la nomina di un giudice antiaborto alla Corte Suprema. Cambiamenti climatici, l'Agenzia Meteo dell'ONU lancia l'allarme: il 2016 verso il record storico, l'anno più caldo di sempre. La causa principale sono i gas serra prodotti dall'attività umana. Lo spread sfonda quota 180, Renzi dice colpa dell'incertezza, l'opposizione attacca, il presidente della BCE Draghi sottolinea che è necessaria la stabilità per le buone riforme. Allarme sicurezza a Milano, è morto il 37enne aggredito in Piazzale Loreto, il sindaco Sala chiede al governo l'invio dell'esercito nelle periferie. Terrorismo, arrestato in Sudan il terrorista tunisino Fezzani, reclutatore dell'ISIS in Italia. Siero positivo contagiò 30 donne, rinviato a giudizio con l'accusa di epidemia dolosa e lesioni gravissime, rischia l'ergastolo. Boom di matrimoni nel 2015, secondo i dati Istat, è il maggior numero dal 2008. E partiamo quindi dagli Stati Uniti, con proteste, polemiche, i rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Oggi c'è stata, tra l'altro, la riunione a Bruxelles dei ministri degli esteri e della difesa dell'Unione. Mentre Donald Trump affronta le sue prime gatte da pelare con la nomina del controverso Stephen Bannon a capo della strategia, decisione fortemente contestata per la vicinanza dello stesso Bannon alle posizioni dei nazionalisti bianchi americani, l'Europa sembra ancora cercare il bandolo della matassa nel rapporto con la nuova amministrazione statunitense. La Commissione europea, dopo aver pesantemente attaccato Trump la scorsa settimana, aspetta ancora un contatto, ma non pare che Bruxelles sia esattamente in cima alla lista dei numeri da chiamare alla Trump Tower, dove ha già fatto un ingresso trionfale invece il leader Brexit Farage. I ministri degli esteri comunitari si sono ritrovati ieri sera a Bruxelles per una cena che ha prodotto molto fumo e poco arrosto, e dove a risaltare sono state più le assenze di Gran Bretagna e soprattutto Francia che non le presenze. L'unico vero passo concreto si riassume così nell'approvazione odierna, abbastanza dovuta, di un piano per una maggiore integrazione della difesa comunitaria, con la creazione di una struttura centrale di pianificazione che potrebbe divenire in futuro una sorta di stato maggiore, insieme a maggiori attività di coordinamento e messa in comune di assets. Un piccolo passo, ma importante in un momento così complicato, commenta il ministro degli esteri Gentiloni, mentre la collega alla difesa Pinotti annota. Il messaggio di una maggiore responsabilizzazione dell'Europa anche sui temi della difesa precede l'amministrazione Trump. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma sui molti temi emersi nelle ultime ore, vi dicevo, torneremo collegandoci con gli Stati Uniti, da Bannon Judy, quindi il capo stratega dell'amministrazione Trump, che è così criticato da ebrei musulmani neri, e poi il giudice antiaborto che vuole nominare Trump alla Corte Suprema, la conferma della costruzione del muro col Messico, insomma un sacco di elementi, di temi sul piatto. Però restiamo ancora all'estero. Dopo settimane di fumate nere c'è il nome del nuovo presidente tedesco, che è Frank-Walter Steinmeier, ministro degli esteri socialdemocratico, espressione dell'ala riformista del partito, nota per le riforme sociali, e poi il voto dell'Assemblea federale è previsto per il 12 febbraio. E c'è l'allarme sui cambiamenti climatici, l'agenzia meteo dell'ONU a lanciare l'allarme. Il 2016 verso il record storico dell'anno più caldo di sempre. La causa principale sono i gas serra prodotti dall'attività umana e sarà, come dicevo, uno dei temi di approfondimento della puntata di questa sera. E ora la situazione economica italiana, sulla quale pesa l'incertezza prevoto spread, che è tornato oggi a salire fino a 182 punti. Aumenta lo spread? Ovvio, se c'è l'incertezza aumenta, non è una minaccia, è una constatazione, ha detto il Presidente del Consiglio Renzi. Intanto l'Italia torna in deflazione, mentre arrivano anche altre novità sulla manovra. Con la legge di bilancio torna il ponte sullo stretto di Messina. Fra i tanti emendamenti presentati da partiti e governo ce n'è uno, targato Area Popolare, che chiede di dichiarare il ponte di collegamento tra il continente e la Sicilia un'infrastruttura prioritaria per l'interesse del paese. Necessaria, si sottolinea, a rilanciare l'economia del Mezzogiorno. Un'altra correzione, firmata da 24 deputati, prevede un aumento dei limiti del turnover negli enti locali fino al 50% nel 2016 e nel 2017 e al 75% nel 2018. Il decreto legge collegato alla manovra inoltre torna in commissione bilancio per un buco di copertura, una svista che rischia di allungare i tempi per il via libera dell'aula della Camera, prevista per domani. Sul fronte macroeconomico, l'Italia a ottobre è tornata in deflazione, certifica l'Istat, con i prezzi in discesa dello 0,1% rispetto a settembre e dello 0,2% su base annua. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La politica con il referendum. Da Milano è partito oggi il tour di Matteo Renzi per il sì. Tra sondaggi esposti per presenza in TV e gaffe internazionali, la campagna referendaria per il sì di Matteo Renzi subisce una battuta d'arresto. Il premier spiega che la maggioranza silenziosa degli italiani è con lui e sollecita i sostenitori della riforma costituzionale ad uno sforzo per coinvolgere queste persone. Ma questo è un momento nel quale ci sono davvero paesi che stanno mettendo in carcere i professori, magistrati, giornalisti. Come fai a dire che l'Italia è una deriva autoritaria perché abolisci qualche poltrona del CNEL o del Senato? Ma un sondaggio di Porta a Porta dà il no in vantaggio al 52,5% contro il sì al 47,5%. Intanto Forza Italia e Lega protestano alla Gcom per la presenza in TV di Renzi a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Altra gaffa è quella dell'anagrafe estera, che nella lettera agli italiani a Gerusalemme scrive Palestina invece di Israele, suscitando le ire della comunità ebraica. Intanto il Movimento 5 Stelle continua il suo tour per il no, così Alessandro Di Battista. Il paese è bloccato su riforme che nessuno ha chiesto, dannose. Non possiamo permettere che siano i partiti che ci hanno rovinato la vita a decidere gran parte dei parlamentari. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo su Milano. Il sindaco Sala lancia l'allarme sicurezza. È morto questo pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele Antonio Raffaele Ramirez, il domenicano di 37 anni, ferito sabato sera a colpi di pistola e di coltello in piazzale Loreto a Milano. Ora il sindaco Giuseppe Sala chiede l'intervento dell'esercito. Adesso, terminando il giubileo, io mi auguro che parte dei militari che erano a Roma per il giubileo potranno arrivare a Milano. È una via che sto considerando. Come abbiamo sentito, il sindaco di Milano Giuseppe Sala sta considerando di chiedere al governo una parte dei militari che erano impegnati sul progetto Strade Sicure per il giubileo perché presidino le periferie milanesi. Sala ha parlato a margine della visita a Quartogiaro della presidente della Camera Laura Boldrini. I militari possono tornare utili in una situazione come quella di Milano e di Via Padova in particolare, ha specificato il sindaco, dopo il grave episodio di violenza accaduto sabato sera a Loreto, zona appunto Viale Padova, dove un cittadino sudamericano è stato ferito a morte a colpi di coltello e arma da fuoco. Così poi il sindaco, che gli chiedeva se l'esercito nei quartieri non sia sempre stato una bandiera della destra. Da questo punto di vista questi sono temi su cui non permetteremo a nessuno di impadronirsi di questioni che sono questioni dei nostri cittadini. Pronta la reazione all'annuncio di Sara di Matteo Salvini. L'esercito a Milano? Ma come? Quando l'abbiamo fatto noi, il PD l'ha cacciato e ora lo richiama. Sala e Renzi dovrebbero vergognarsi, rincare il leader della Lega, perché hanno preso in giro i milanesi e tolto sicurezza alla città. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed era stato a Milano il tunisino arrestato oggi in Sudan, avrebbe reclutato per l'ISIS. Prima di essere accompagnato fuori dai confini d'Italia, Muez Al-Fezzani aveva fatto una promessa: sentirete ancora parlare di me. E in un certo senso, l'uomo che per i magistrati era uno dei principali reclutatori dell'ISIS in Italia, questa promessa l'ha mantenuta, finendo tra i ricercati di Tunisi per l'attentato al bardo, prima di essere ora catturato in Sudan sulla base di un mandato internazionale. Tunisino, conosciuto come Abu Nassim, avrebbe fatto parte fin dagli anni 90 di gruppi satelliti di Al-Qaeda tra Pakistan, Libia, Tunisia e Siria, diventando, per dirla con le parole del giudice Guido Salvini, una figura da manuale del terrorismo islamico. Ma la sua vicenda giudiziaria in Italia dopo la consegna da parte degli Stati Uniti ha avuto fasi diverse. Per i giudici di primo grado si trattava di un ideologo, non un combattente, e per questo fu assolto, salvo poi essere condannato dalla Corte d'Appello di Milano quando ormai era già lontano dall'Italia, espulso per decisione del Ministero dell'Interno. Ma da fuori avrebbe continuato a reclutare mujahideen provenienti dal nostro paese e organizzarne il loro rientro. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. A questo proposito vorrei rendervi nota questa sentenza della Cassazione: niente condanna per il reato di terrorismo internazionale di matrice islamica a carico di imam o dei loro seguaci impegnati in attività di indottrinamento e proselitismo finalizzata a indurre una generica disponibilità a unirsi ai combattenti per la causa islamica e a immolarsi per la stessa. Quindi non c'è condanna se la formazione teorica degli aspiranti kamikaze non è affiancata anche con l'addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di combattimento. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi relative alla soluzione emessa lo scorso 14 luglio, suscitando clamore, dei 4 jihadisti della moschea di Andria, ritenuto dalla Suprema Corte un gruppo a limitata operatività tale da non costituire una minaccia per la collettività. Parliamo delle zone terremotate, anche se il sisma non dà tregua. Stanotte c'è stata un'altra scossa di magnitudo 4. Oggi sono tornati a scuola i ragazzi di Amatrice, fermi già dallo scorso 24 agosto, Macerata, Ascoli Piceno e Norcia, fermi invece dalla scossa del 30 ottobre. Sentiamo Rosella Tonti, dirigente dell'Istituto Onnicomprensivo di Norcia, intervenuta oggi a Effetto Giorno. Siamo molto contenti di questo progetto, si è realizzato veramente un sogno per i nostri ragazzi, perché sono tornati a scuola e soprattutto sono tornati in un luogo sicuro che li ospiterà tutto il giorno, non solo per formarsi e fare cultura, ma per socializzare, per organizzare numerose attività. Allora, dove sono ospitati i ragazzi al momento? I ragazzi sono ospitati appunto in alcuni moduli e 17 classi, e queste classi vedranno la presenza la mattina degli studenti del secondo grado, delle scuole superiori, il pomeriggio della primaria e delle medie. La cronaca adesso: per la prima volta in Italia si terrà un processo per il contagio diffuso di HIV, di AIDS. Sul banco degli imputati il 2 marzo prossimo in Corte d'Assise a Roma ci sarà il 32enne Valentino Tagliuto, accusato di aver contagiato con almeno 30 donne conosciute tramite web, benché fosse conscio di essere sieropositivo. Pesantissime le ipotesi di reato contestato: epidemia dolosa, pena massima prevista all'ergastolo e lesioni gravissime. Complessivamente la procura contesta a Tagliuto 57 casi tra contagi diretti del virus, indiretti, per esempio un bimbo nato malato da un suo rapporto con una di queste donne, e 3 parti di donne in precedenza infettate, nonché episodi di donne scampate alla trasmissione dell'HIV. Nel capo d'accusa si sottolinea che l'uomo, a partire dall'aprile del 2006, quando scoprì di essere sieropositivo, e fino al 23 novembre scorso, quando fu appunto arrestato, non ha esitato a avere rapporti sessuali non protetti. Parliamo di matrimoni. A sorpresa, in Italia ci si torna a sposare, lo dicono i dati Istat. Nel 2015, c'è stato l'aumento annuo più forte dal 2008. E poi tra poco cercheremo qui Effetto Notte di analizzare questi dati e capire questa inversione di tendenza. E poi, per chiudere, vi comunico anche che l'Assemblea degli azionisti del gruppo del Sole 24 Ore ha nominato oggi il nuovo consiglio d'amministrazione indicato dall'azionista di maggioranza Confindustria, nuovo presidente del gruppo editoriale Giorgio Fossa. Durante l'assemblea i giornalisti del quotidiano Il Sole 24 Ore hanno indetto sciopero immediato. Domani, quotidiano che dunque non sarà in edicola, in sciopero sempre nella giornata di domani i giornalisti di Radio 24 e dell'agenzia di stampa Radio Corre, quindi anche Fettonotte non sarà in onda. Adesso quindi, riassunto della giornata, voi cominciate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Fettonotte oppure al 349-238-6666, ringrazio Gianni che da sempre la buona serata augura, e poi c'è Emiliana che dice: la richiesta di intervento con l'esercito a Milano dimostra l'incapacità di governo di Sala, anche se io direi che sia sul governo di Milano come su quello di Roma è abbastanza presto ancora dare dei giudizi. Poi ognuno naturalmente pensa come ritiene. Vela dice: credo che con il surriscaldamento globale sia l'argomento più importante, in particolare ora che Trump ne contesta la veridicità. Parleremo anche di questo tra poco. Via Brita. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti ve le ho raccontate, adesso cominciamo ad approfondire alcuni temi, in particolare come sempre dopo la viabilità. Sempre Roberta Giordano con voi. Andrea commenta la sentenza della Cassazione che leggevo a proposito dei proselitismi jihadisti. Dice: giudici della Cassazione che stanno dalla parte dei terroristi non è la prima volta. Ora, questa è un'opinione di Andrea, però certo è una sentenza della Cassazione che ha fatto molto discutere. Poi dice invece, chiede Luigi da Padova: Roberta, se domani Radio 24 sciopera, quale sarà la programmazione? Beh, sarà decisamente ridotta. Adesso non so punto per punto, ma ci saranno i giornali radio giusto almeno tre durante il giorno e poi pochi programmi. Adesso pensiamo invece alla puntata di questa sera. Tra poco ci occupiamo di cambiamenti climatici, ma intanto, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21 con la voce che cerco di tirare fuori, vi ricordo quali sono i titoli principali. Lo spread sfonda quota 180, Renzi dice colpa dell'incertezza, l'opposizione attacca, intanto il presidente della BCE Draghi dice che ci vuole la stabilità per le buone riforme. E poi allarme sicurezza a Milano, il sindaco Sala vuole più esercito ed è morto nel frattempo il 37enne domenicano ferito sabato in piazzale Loreto, appunto nel capoluogo lombardo. Scoppia negli Stati Uniti la polemica su Bannon, che sarebbe il capo strategia di Trump, un razzista alla Casa Bianca, titolano alcuni, critiche da ebrei, musulmani, neri, e Trump intanto annuncia che nominerà un giudice antiaborto alla Corte Suprema americana. E poi arrestato in Sudan il tunisino Fezzani, il reclutatore dell'ISIS. In Italia era ricercato, dopo la condanna disse: sono pio e religioso, e però aveva detto anche: non vi dimenticherete di me. E poi in Italia aumentano i matrimoni, è la prima volta dal 2008. E aumenta il caldo, è il caso di dire, con i cambiamenti climatici. Il 2016 sarà l'anno più caldo della storia. Questa è la previsione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Secondo l'Agenzia dell'ONU è colpa del Niño, di questo fenomeno meteorologico, ma soprattutto del riscaldamento globale dovuto ai gas serra. Ne parliamo con Stefano Caserini, che è docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Professor Caserini, buonasera. Buonasera. Come vede, il freddo a me fa male, mi fa venire la bronchite, però sarebbe più normale, diciamo, no? Rispetto a questi dati, professor Caserini. Sì, beh, questo insomma, l'inverno, quindi il freddo, il clima è un discorso a scala globale e i dati sono chiari che stiamo andando verso un progressivo riscaldamento globale. Però un giorno freddo, anche molto freddo, può comunque capitare. Senta, allora già il 2014 sembrava che avesse battuto il record di anno più caldo, poi è arrivato il 2015 che l'ha surclassato, ora secondo le previsioni di questa agenzia dell'ONU il 2016 sarà quello proprio al top della classifica. Questo significa, appunto, ritengono che siano i gas serra prodotti dall'attività umana. Ci sono stati vari accordi, l'ultimo quello di Parigi, no? Sul clima. Quanto quindi questo può dare degli effetti, questi accordi, degli effetti positivi, in quanto tempo e che cosa può produrre questo continuo riscaldamento globale? Ma allora, per la prima parte direi che sicuramente prima di riuscire a vedere sulle temperature del pianeta l'effetto delle politiche sul clima dovremmo aspettare molto, perché adesso quello che è stato deciso è un primo passo di impegni a lungo termine per ridurre le emissioni. C'è stato un primo effetto di rallentamento dell'aumento delle emissioni, però per riuscire a rallentare l'aumento delle temperature dovremmo veramente ridurle intorno all'80-90% rispetto ai livelli attuali. Tantissimo, una cosa, quindi. Tantissimo. Cioè, l'accordo di Parigi è un accordo molto ambizioso, però bisogna chiarirsi bene. Cioè, se vogliamo prenderlo sul serio, dobbiamo nei prossimi 30-35 anni rottamare il sistema energetico basato sui combustibili fossili. In questo modo noi potremmo sperare che entro fine secolo il riscaldamento smetta di aumentare. Però è sostanzialmente certo che anche se riducessimo del 10-20-30%, quindi una già cosa importante, le emissioni globali nei prossimi decenni, comunque il clima, che è una grande inerzia, continuerà comunque a cambiare e a riscaldare appunto l'atmosfera, gli oceani. Quindi questo ci fa capire l'importanza di agire velocemente, proprio perché il sistema climatico ha una grande inerzia. Se noi agiamo subito abbiamo più possibilità di riuscire a vedere più presto la fine dell'aumento del riscaldamento. Professor Caserini, mi dica se ho letto bene che i possibili effetti di questo surriscaldamento sarebbero la desertificazione progressiva, la siccità, al contempo però aumenterebbe l'evaporazione, la massa di vapore acqueo nell'atmosfera, quindi tempeste e uragani diventano più potenti e frequenti, poi le inondazioni e devastazioni sempre più pesanti e la siccità anche spingono i popoli delle aree più colpite a migrare, quindi di nuovo anche lì il problema delle migrazioni, degli esodi, insomma diventa una questione tutta collegata, no? di vari fenomeni negativi. Sì, noi stiamo facendo un esperimento col pianeta, dove farlo funzionare in un modo che non ha mai funzionato sicuramente da quando esiste la nostra civiltà, insomma, gli ultimi 10.000 anni. Quindi quello che ci possiamo attendere è sicuramente un riscaldamento dell'atmosfera e degli oceani con impatti sulla vita delle persone, magari chi vive più in zone fredde potrebbe averne anche dei benefici. Sicuramente ci sono molte zone del pianeta in cui i sistemi agricoli saranno fortemente sotto stress e questo può portare magari a siccità prolungate per magari 3-4 stati, fanno sì che se i raccolti sono molto bassi, poi le persone, un po' gli agricoltori, un po' resistono, poi migrano nelle città e poi magari cercano di cambiare nazione per andare dove hanno più possibilità di sopravvivere. Quindi c'è molto allarme a livello mondiale sugli impatti anche geopolitici che potrebbero esserci a scala globale, appunto per via del movimento di milioni di persone che non hanno più possibilità di sostentamento nelle loro zone. Il cambiamento climatico è un fattore che aggravia delle situazioni già critiche, non è mai l'unico fattore di questo tipo di fenomeni. Sicuramente in una situazione già sotto stress, se arrivano estati che portano alla povertà e alla miseria, diciamo centinaia di migliaia, un milione di agricoltori, anche questi sono dei fattori che possono fare scoppiare magari anche delle tensioni forti a livello politico in alcuni paesi. Questo è stato già identificato anche un po' una cosa che è successa anche in Siria, dal 2009 al 2011 tre estate molto siccitose hanno portato all'inubamento di circa un milione di agricoltori, che è stato uno dei fattori naturalmente, non l'unico, di quello che è successo in Siria. Quindi sicuramente poi ci sono impatti a scala più grande, certo. No? Perché se si sta tanto tempo con temperature molto alte si rischia la fusione dei ghiacci e quindi l'aumento, l'aumento del livello del mare. Senta, professor Caserini, per stare invece nel piccolo, quando per esempio anche noi in Italia vediamo, quando si parla di bombe d'acqua, no? questi nubifragi a cui magari fino a qualche anno fa non eravamo abituati, o trombe d'aria, secondo lei dipendono anche loro da questi cambiamenti climatici? Ma adesso il singolo fattore si fa sempre fatica ad attribuire a un singolo fattore il segno del cambiamento climatico. Quello che si può dire è che il cambiamento climatico determina degli sconvolgimenti in diversi modi sulla temperatura degli oceani e dei mari, quindi può essere un fattore magari che innesca alcuni meccanismi, come può essere una precipitazione molto intensa, più frequente. Ecco, non è facile dire che il singolo evento, lo si può dire magari dopo diversi mesi facendo dei studi sull'attribuzione. Certo, si è visto come ad esempio l'evaporazione dai mari molto intensa per via di un mare molto caldo potrebbe innescare quindi dei fenomeni meteorologici locali più intensi. Però ecco, sicuramente in un clima cambiato la scienza del clima ci dice che è più probabile che possono esserci precipitazioni molto intense e più frequenti. Senta, professore, per dare un dato positivo, la Cina ha deciso di consumare meno carbone, gli Stati Uniti anche hanno tagliato le emissioni, però adesso c'è l'incognita Trump, no? Che è uno di coloro che dicono è un'esagerazione, non esistono i cambiamenti climatici, anzi avrebbe detto in campagna elettorale anche fa freddo, il mondo va riscaldato, e quindi diciamo preoccupa un po' la posizione che il nuovo presidente degli Stati Uniti, che ovviamente non è l'ultimo stato della Terra, potrebbe prendere in direzione anche dei vari accordi che ci sono stati, potrebbe fare tabula rasa. Non sarà facile fare tabula rasa dell'accordo di Parigi, perché è stato anche costruito per fare in modo che nessun paese possa singolarmente sabotarlo. Ormai la ratifica degli Stati Uniti c'è stata, a meno di colpi di scena legali che sembrano molto improbabili, gli Stati Uniti saranno obbligati a rimanere nei prossimi 4 anni all'interno dell'accordo di Parigi. Cioè, potrebbe però naturalmente uscire dalla Convenzione sul Clima come uscire dall'ONU, ecco, questo sarà un scenario estremo. Sicuramente è una cosa drammatica che in questo momento storico, con rischi come sappiamo molto pesanti, pensiamo alla Florida, di inondazioni legati all'aumento del livello del mare, appunto venga eletto una persona che ha messo in discussione, diciamo, la scienza del clima, ma poi ricordiamo che quella parte conservatrice, diciamo anche in modo radicale, contesta anche l'evoluzione, la scienza dell'evoluzione umana. Quindi insomma, sono proprio posizioni razionali, antiscientifiche. Non so davvero quanto, non è chiaro quanto potrà davvero danneggiare la transizione energetica che anche si è avviata, perché oggi il carbone costa di più di alcuni altri tipi di energia. Sì, perché infatti vorrebbe ricominciare a usare il carbone, riaprire alcune miniere, almeno però questo è il mercato problema dell'energia, per cui insomma potrà arrivare a dare così tanti sussidi per rendere ancora competitivo il carbone, non so se se lo potrà permettere. Staremo a vedere, purtroppo è molto preoccupante quello che succede. Professor Casarini, un'ultima cosa, la scrive Andrea, dice: se sono vere le previsioni degli astronomi, nei prossimi 30 anni è previsto un rallentamento dell'attività solare con la possibilità di una mini glaciazione. Ma questa è una cosa destituita di ogni fondamento. Abbiamo talmente gas serra in atmosfera che è sostanzialmente impossibile che il pianeta vada verso un'era glaciale per i prossimi migliaia di anni. Dobbiamo preoccuparci esattamente dello sport. Stavolta queste cose si sentono su qualche blog che, diciamo, senza alcun contenuto scientifico. Però su questo gli scienziati sono concordi. Con gli attuali livelli di gas in atmosfera, quei meccanismi che una volta avvenivano molto lentamente per essere innescati ci volevano migliaia e migliaia di anni, adesso ce li scordiamo. Potremmo vederla come una cosa positiva, ecco, del riscaldamento globale, perché poi anche un'era glaciale sarebbe stata una cosa molto, molto critica per la vita umana. Però al di là degli scherzi, qui siamo veramente davanti al rischio che ci sia una destabilizzazione delle calotte glaciali, Groenlandia, Antartide, con l'aumento del livello del mare di metri in pochi secoli. Quindi una cosa che metterebbe a rischio molto il nostro continente. Grazie professor Stefano Casarini, ricordo, prego, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Buona serata professore. E rispondo all'incredulo Pietro, che dice: nonostante tu faccia fatica a parlare, non rinuncio all'ennesima ridondante spaccapalle, inutile ripetizione dei titoli delle notizie, hai calcolato quanti minuti sprechi. Incredulo, sarai incredulo Pietro, però incredulamente non capirai che ogni tanto gli ascoltatori possono spegnere o riaccendere o si collegano in momenti diversi. Pietro, diciamo, hai un po' una visione egocentrica, ma d'altronde insomma non è così rara. 349-238-6666 per i vostri messaggi su WhatsApp o SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo dopo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, seppure bronchitica, e siete al posto giusto da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando. Riccardo, lo ringrazio, dice: io sono in Australia, ripeti pure le notizie, rispondendo all'ascoltatore di prima che era scocciato del ripetimento delle notizie, la ripetizione delle notizie. Dice: sono in Australia e preparandomi per andare al lavoro, se sono in ascolto ora le notizie di oggi, altrimenti non le ascolto più. Grazie Riccardo, perché Effetto Notte lo ascoltano da ogni parte del mondo, a ogni latitudine del globo, per essere informati, aggiornati a fine giornata per quanto riguarda noi, poi a seconda naturalmente del fuso orario, avere un'idea, diciamo una panoramica abbastanza esauriente, piuttosto esauriente, delle notizie più importanti. Ora Mentre questo tra pagina Facebook di Effetto Notte, continuate con i vostri messaggi e al 349-238-6666. Poi un ascoltatore caritatevole mi dice: se non ancora non lo usi, propoli spray nasale con sale marino. Non è, il naso è libero, è proprio una questione di bronchi, purtroppo. Grazie comunque per i consigli e altri messaggi, poi li leggerò dopo. Adesso invece vi ricorderei appunto per l'appunto le notizie più importanti della giornata. Stati Uniti, scoppia la polemica sul capo stratega dell'amministrazione Trump, considerato esponente dell'ultradestra razzista, critiche da ebrei, musulmani e neri, e intanto il neoeletto presidente annuncia la nomina di un giudice antiaborto alla Corte Suprema. Cambiamenti climatici, ne abbiamo appena parlato, l'Agenzia Meteo dell'ONU lancia l'allarme il 2016 verso il record storico di anno più caldo di sempre, la causa principale sono i gas serra prodotti dall'attività umana. Lo spread sfonda a quota 180, Renzi dice è colpa dell'incertezza, l'opposizione attacca, il presidente della BCE Draghi sottolinea che è necessaria la stabilità per le buone riforme. Allarme sicurezza a Milano, è morto il 37enne aggredito in piazzale Loreto, il sindaco Sala chiede al governo l'invio dell'esercito nelle periferie. Terrorismo, arrestato in Sudan il terrorista tunisino Fezzani, reclutatore dell'ISIS in Italia. Sieropositivo contagiò 30 donne, rinviato a giudizio con l'accusa di epidemia dolosa e lesioni gravissime, rischia l'ergastolo. Boom di matrimoni nel 2015, secondo i dati Istat è il maggior aumento dal 2008. E adesso ci concentriamo nuovamente naturalmente sugli Stati Uniti. Siamo in pieno periodo di transizione tra il presidente uscente Barack Obama e quello appunto neoletto entrante Donald Trump. Intanto le proteste contro l'elezione di Trump continuano, non si fermano, si tratta di una situazione decisamente insolita nella storia politica moderna degli Stati Uniti. Addirittura uno storico americano dice che non si ripeteva dal 1860 dopo l'elezione di un presidente. Si trattava di Abramo Lincoln. L'elezione di Trump ha portato tra l'altro a un'escalation delle tensioni razziali fra gli studenti nei vari campus, nelle varie università americane. Ne parliamo con Marco Valsania e con lui ci colleghiamo con New York, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao a voi. Confermi che queste proteste proseguono anche addirittura, sì, leggevo nelle università. Proseguono le proteste, ormai si sono allargate a oltre una cinquantina di città, di grandi città americane. Diciamo che l'epicentro delle proteste restano i centri urbani, che in massima parte hanno votato per Hillary Clinton, i centri urbani in particolare delle due coste, quindi all'est da New York, Philadelphia, Boston, e all'ovest la California, Washington, Seattle, l'Oregon, quindi Portland, quindi queste grandi città. Continua la tensione, continuano le proteste all'insegna degli slogan "non è il nostro presidente", come protesta appunto per le prese di posizione di Trump, che continuano insomma a essere, per quanto in alcuni casi un po' più moderate, ma comunque spesso provocatorie. Tra l'altro Renzi oggi ha detto: beh, potevano pensarci prima, potevano votare invece di astenersi, anche se c'è per esempio Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, che scriveva oggi sul Corriere, titolava "Trump e i paradossi del voto popolare", cioè riconfermando questo paradosso, diciamo così, del sistema elettorale americano, per cui anche vincendo tra i voti dei cittadini, i voti popolari, magari invece perdi con i voti dei grandi elettori. Così è stato nel caso di Hillary Clinton e Donald Trump, cioè lei ha avuto più voti popolari, però poi la democrazia americana funziona così. Ha avuto circa così mezzo milione in più di voti popolari, però appunto concentrati in alcuni stati, e quindi diciamo il risultato in termini di grandi elettori, cioè di voti presidenziali, è stato invece inferiore. Uno dei paradossi, come ricordavi, legato così, frutto diciamo così di altri tempi e di altre preoccupazioni, in particolare se si vuole il contrario delle preoccupazioni semmai un po' elitiste, cioè dai padri fondatori, diciamo, e subito dopo l'ipotesi, cioè la preoccupazione era di non lasciare proprio del tutto in mano ai popolari, in caso appunto venisse eletto qualche demagogo un po' troppo estremista, e in questo modo magari i grandi elettori potevano, diciamo, come corpo intermedio, insomma, del voto popolare, come filtro. Tra l'altro Cassese diceva: questo ci insegna delle cose, per esempio che la democrazia è un sistema con molti limiti e largamente imperfetto, ma dobbiamo tenercelo perché la democrazia non è stato sperimentato rispetto alla democrazia un sistema migliore. Poi dice: la democrazia non è il governo della maggioranza ma solo quello della più forte minoranza. E vabbè, comunque è andata così. Un ascoltatore scrive: non comprendo perché protestino, non ha vinto la democrazia, se la prendano con i milioni di elettori in meno. No. D'altronde, comunque, questo è il dato e Donald Trump è il nuovo presidente. A proposito invece delle varie contestazioni, anche questa vicenda di quello che diventa il capo della strategia dell'amministrazione di Trump, Bannon, che è accusato da musulmani, ebrei e neri di essere razzista e anche antisemita. Gli stessi democratici dicono che adesso sono in minoranza al congresso, dicono un nazionalista bianco è stato nominato capo stratega dell'amministrazione Trump, non bisogna edulcorare la realtà, è così. Certo, la polemica è imperversa perché diciamo in questa fase di così confusione e anche di incertezza su quale sarà lo stile dell'amministrazione Trump, chiaramente le nomine diventano la prima cartina di tornasole e Trump diciamo così ha dato un colpo al cerchio e una alla botte, se così vogliamo dire. Ci ha nominato capo di staff Reince Priebus, che è diciamo così un uomo d'apparato, proprio diciamo così l'insider per eccellenza, un uomo che ha fatto tutta la sua carriera di successo dentro al partito da quando era praticamente poco più che adolescente, e quindi diciamo in qualche modo una così garanzia, se si vuole così, di maggior moderazione, equilibrio o comunque di capacità di negoziare di compromessi. Dall'altra però appunto, come ricordavi, ha nominato invece Stephen Bannon capo stratega, e Stephen Bannon diciamo che è per sua stessa ammissione in epoche diciamo pre-elettorali, lui definiva il suo network, il Party News Network, la piattaforma dell'alt-right, cioè dell'alternative right, cioè di questo coagulo di nebulosa di gruppi dell'estrema destra che comprende di tutto. Certo, comprende anche dei gruppi e delle voci così di conservatrici, diciamo così, razionali, ma comprende anche estremisti bianchi, nazionalisti, razzisti, antisemiti, anti-afroamericani, tifosi della discriminazione, fino a neonazisti veri e propri. Quindi diciamo l'accusa ha sicuramente un fondamento nella carriera di Steve Bannon, che è, diciamo certo vanta una laurea ad Harvard e un passato da fante d'assalto nell'esercito americano, ma poi vanta una carriera politica fatta proprio costruita proprio sugli altari della destra più radicale. Quindi le preoccupazioni sono sicuramente scattate a questo punto da parte anche di alcuni repubblicani, non solo di democratici. Marco, comunque adesso siamo in chiusura, volevo ricordare che Trump ha promesso che manderà via 3 milioni di clandestini, che ci sarà la costruzione del muro col Messico, anche se un ascoltatore ricorda che c'è da anni, se non sbaglio va scritto dal 1994, e poi la nomina di un giudice alla Corte Suprema anti-aborto. Sì, diciamo che le promesse anche lì vanno, diciamo, alcune ad attenuare alcune delle sue proposte più radicali, altre però a confermarle. Per esempio la questione della Corte Suprema, dove ha diciamo confermato la sua idea di nominare un giudice ultraconservatore che possa rimettere in discussione quantomeno il diritto d'aborto. Sulla questione dell'immigrazione ha, diciamo così, alzato il tiro, come dicevi. C'è da ricordare una cosa, che i 3 milioni però che lui vuole deportare non sono molti di più dei 2 milioni che ha deportato Obama durante la sua amministrazione, quindi non è si contendono il primato forse, allora diciamo che caso. Esatto, non è poi tutta questa grande novità, cosa diciamo, per te. E così come il muro, se diventa un reticolato francamente diciamo così che abbiamo già visto. Marco, chiudo dicendo che per il momento l'Unione Europea si sente un pochino ignorata, ma vedremo. Intanto però leggo che c'è stato notizia di poco fa, un colloquio telefonico tra Trump e Putin, il presidente russo, e che si cercherà di avere un rapporto di dialogo e di parità, è un possibile incontro a breve. Su questo, caro Marco, devo chiudere, e tanto avremo modo di aggiornarci costantemente, insomma, no? È appena stato eletto Donald Trump e quindi ci sarà modo di valutare la sua amministrazione, la sua politica. Grazie a Marco Valsani da New York. Adesso direi di sentire gli aggiornamenti per chi viaggia. Ciao Marco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Vi presenta È Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra poco brevemente. Roberta Giordano sempre con voi, per interagire qui Effetto Notte c'è la pagina Facebook del programma Effetto Notte, oppure il 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Francesco dice: il sistema americano serve a eleggere il presidente di una nazione federale, quale sono appunto gli Stati Uniti, per questo privilegia e ritiene meglio rappresentativo il candidato che ottiene un consenso diffuso in più stati anziché numericamente maggiore ma limitato in aree ristrette. Dice tra poco lo spazio europeo, però appunto vi ricordo, se non avete acceso la radio puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. Lo spread appunto che sfonda quota 180, Renzi dice colpa dell'incertezza, l'opposizione lo attacca, e poi il presidente della BCE, della Banca Centrale Europea, Draghi, dice la stabilità serve per fare buone riforme. E poi l'allarme sicurezza a Milano lanciato dal sindaco Sala, che chiede l'invio dell'esercito nelle periferie dopo il ferimento di un 37enne domenicano in piazzale Loreto sabato sera, che oggi è morto in ospedale. Scoppia la polemica degli Stati Uniti su Bannon, che è il capo stratega dell'amministrazione Trump, un razzista alla Casa Bianca. Queste sono le critiche di ebrei, musulmani, neri e anche dei democratici, che sono adesso minoranza al Congresso, al Parlamento americano. E poi l'annuncio della nomina di un giudice antiaborto alla Corte Suprema americana. Arrestato in Sudan il tunisino Fezzani, reclutatore dell'ISIS in Italia, era ricercato. E poi aumentano i matrimoni, è la prima volta dal 2008, si parla di un boom, ne parleremo tra poco. È danneggiata a Roma la statua dell'elefante del Bernini, staccato un frammento della zanna a Piazza della Minerva. E adesso parliamo di Europa. Stop dell'Unione Europea al commercio di beni e servizi che possano contribuire alla tortura o alla pena di morte. Uzon, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Il Parlamento ha votato un aggiornamento delle norme europee per impedire il commercio di beni e servizi che possono contribuire alla tortura o alla pena di morte. Durante i negoziati con gli Stati membri, il Parlamento ha inserito un divieto di commercializzazione e di transito delle attrezzature utilizzate per il trattamento crudele, inumano e degradante delle persone nei paesi terzi. Ora sarà illegale vendere e comprare online servizi pubblicitari per le merci vietate che non abbiano altro uso pratico se non quello di esecuzione o di tortura, ad esempio sedie elettriche, sistemi di iniezione di droga automatici o viti a spillo. Il divieto si applica anche alle esposizioni e fiere all'interno dell'Unione, dove alcune scappatoie legali hanno finora consentito, nonostante il divieto di esportazione, la pubblicizzazione e la visualizzazione di alcuni prodotti, ad esempio manganelli a spillo, scudi a spillo e manette dentate da applicare ai pollici. Ne parliamo con l'europarlamentare Tiziana Beghin, che saluto. Provvedimento sicuramente importante, ma forse un po' tardivo, non trova? Sì, beh, decisamente il provvedimento è un po' tardivo, perché andiamo a aggiornare un regolamento del 2005, quindi gli anni nel frattempo sono passati, la tecnologia ha fatto passi da gigante e sicuramente gli aggiornamenti potevano essere fatti molto prima, però insomma, come si suol dire, meglio tardi che mai. Scorrendo l'ultimo rapporto di Amnesty si trovano nomi e cognomi di imprese che fanno affari con gli strumenti di tortura, come scariche elettriche, fruste, bastoni, catene, medicinali usati per la pena capitale. Fino ad ora hanno avuto vita facile in Unione Europea? Beh sì, decisamente hanno avuto vita facile, molto ipocritamente si è chiuso un occhio, si sapeva anche che si potevano trovare delle scappatoie per poter comunque aggirare anche una norma che in qualche misura voleva porre dei freni. Però faccio un esempio banale: quando la legge parla di mazze chiodate, definendole bastoni di legno con dei chiodi, in questo momento possono essere costruite in carbonio e queste sono escluse dalla normativa. Questo era una necessità assoluta, intervenire per poter evitare anche l'aggiramento di norme. Queste aziende non cesseranno il loro business dall'oggi al domani per un divieto imposto dall'Unione Europea. Come si attueranno i controlli e a chi competono? Diciamo che sicuramente non cesseranno dall'oggi al domani, però noi non siamo completamente soddisfatti del risultato che è ottenuto, perché sicuramente si poteva anche fare di più. Però ci saranno controlli più stringenti, è stato previsto uno scambio di informazioni anche tra i diversi stati membri, cosa che è sempre difficile, può sembrare strano, ma non è così semplice arrivare ad avere uno scambio di informazioni tra due stati dell'Unione Europea. Abbiamo vietato addirittura il transito per esempio nel territorio, quindi sicuramente è una normativa che qualche passo avanti lo fa. Uzon, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E in chiusura parliamo di questo aumento dei matrimoni, la prima volta dal 2008, poi c'è anche il boom del divorzio breve, dopo la legge che è passata, sapete, nel 2015 i divorzi sono cresciuti del 57% sul 2014, ma chiedo al professor Mario Abis, sociologo dell'Università Yulm di Milano, di spiegare come mai questa inversione di tendenza sui matrimoni. Professore, come se la spiega? Buonasera. Beh, intanto io vorrei dire un dato interessante, ma non vorrei da enfatizzare più di tanto. Stiamo parlando di un incremento di circa il 2%, 2,5%, quindi sì, è un dato di conto di inversione del trend, però non è un dato dimensionalmente molto importante. Si vede che ha creato tanto entusiasmo che i titoli sono boom. Esatto, siccome eravamo abituati sempre su questi fenomeni patrimonio, demografia, essere sempre in trend negativi, questo dato ci colpisce, soprattutto per questo spesso di inversione più che per il valore assoluto. Il dato solamente significativo poi quello dei divorzi, no? Legato al divorzio breve, dove ha avuto un incremento, come le ricordavo, di oltre il 50%. In realtà perché? Ci sono una serie di fenomeni combinati di carattere proprio strutturali. Il primo è proprio la connessione fra il divorzio breve, che permette soprattutto le secondi matrimoni. Se andiamo a vedere l'aggregato di questo dato, sono soprattutto matrimoni, l'incremento è legato a coppie che si sposano per la seconda volta, e questo grazie al divorzio breve, che quindi libera, diciamo, una serie di possibilità di relazioni che fino a quel momento erano bloccate. Il secondo dato è indubbiamente legato a una leggera percezione, nella dimensione soggettiva più importante di quello, di un cambiamento del contesto economico. Come sappiamo, che i matrimoni sono sempre stati legati anche ai dati di contesto economico, percezione di difficoltà, impoverimento e quant'altro. Adesso c'è soggettivamente qualche piccolo, c'è stato soprattutto nel 2015 qualche piccolo segnale di miglioramento, quindi favorisce. Il terzo elemento sicuramente legato alla combinazione con i matrimoni, anche con gli immigrati, con popolazioni straniere. No? E quindi anche loro contribuiscono. Professor Mario Abis, la ringrazio per la sintesi, mi perdoni, dobbiamo lasciarci. Grazie intanto e ci riaggiorniamo alle 22.